Thank you. Prima arriva il petto, dopo un'ora arrivo io. mani di digitale. No, vi dico, via da me a ti digito. Questa è tu, basta che funzioni. Cosa c'è? Cosa è? Fighissimo, basta che funzioni, l'hai visto? Thank you.